Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Nella puntata di questa sera torniamo su uno dei temi che ci sta più a cuore. Parliamo di brand e impatto sociale, da fattore accessorio a fattore competitivo, da attività di responsabilità sociale a attività di marketing vera e propria, perché le decisioni d'acquisto di tutti noi consumatori sono sempre più guidate dalla fiducia che scegliamo di dare a un brand in relazione al suo impegno per l'ambiente, la società, la comunità. In questa chiave vi raccontiamo un bel progetto di inclusione sociale e crowdfunding civico lanciato da un colosso del largo consumo come Coca-Cola. E poi parliamo di Io Condivido, il festival di altro consumo che quest'anno è tutto dedicato alla sharing economy, di tech beauty con i cosmetici intelligenti, protagonisti del nostro focus sui trend, e di tecnologia e marketing nella nostra riflessione finale. Spesso la folla è molto più intelligente della persona più intelligente che ne fa parte. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Si affida al crowdfunding civico Coca-Cola per promuovere progetti di inclusione sociale in 10 città italiane. Il progetto si chiama C10 e consiste in una call, un bando aperto a associazioni, gruppi di cittadini, organizzazioni no profit ed enti privati per l'individuazione di opere di pubblico interesse, una per ogni città, da finanziare attraverso il crowdfunding. Un progetto pilota nel quale crediamo molto, ci ha detto il direttore comunicazione Coca-Cola Italia, Vittorio Cino. Nasce tenendo conto due esigenze particolari che Coca-Cola, ma in realtà oggi, il mondo di oggi, esige sempre di più. Accomunare il tema dell'innovazione e il tema dell'inclusione sociale, cioè cercare di lavorare sul piano dei progetti sociali, soprattutto quei progetti che prevedono il coinvolgimento di zone di grande città periferiche che hanno bisogno di numerosi interventi di carattere sociale, che si prefiggono l'obiettivo di prevedere inclusione sociale, integrazione, una parola molto attuale di questi tempi. In che modo? Utilizzando l'innovazione, quindi utilizzando il mondo social e il mondo digitale, che oggi sta diventando pervasivo in senso negativo ma anche in senso positivo. La coniugazione di queste due esigenze ci ha portato a pensare e a realizzare appunto questo progetto. A chi è rivolto il bando e come funziona? Noi abbiamo intenzione di rivolgerci a tutti coloro, quindi organizzazioni di vario tipo, associazioni, privati, raggruppamenti di cittadini che hanno dei micro progetti. Ci sono tantissimi piccoli progetti di intervento, di ristrutturazione, di rifacimento, che esigono piccoli magari finanziamenti, ma proprio quei piccoli finanziamenti sono difficilmente reperibili. Quindi noi ci rivolgiamo proprio a quei progetti lì, in 10 città italiane, da cui il progetto C10. Voglio ricordare le città Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona. Sempre di più nelle grandi aziende attività di responsabilità sociale, che un tempo erano diciamo così relegate in ambito CSR e quindi considerate in qualche modo accessorie, stanno diventando un fattore competitivo per i brand. Ecco, per voi è così? Certamente così. Noi siamo un gruppo internazionale, sebbene fortemente radicato in Italia, e come in ogni paese in cui operiamo, il tema della cittadinanza è un tema che ormai si rivolge sempre più anche alle aziende. La cittadinanza significa cittadinanza attiva, nel senso di operare soprattutto nei rapporti con i territori che ci ospitano in maniera responsabile, e quindi parte anche di progetti o di attività che coinvolgono il territorio. Ormai il tema etico fa parte del menu, diciamo così, di valutazione con cui il cittadino / consumatore anche giudica in merito al brand e ai prodotti di quell'azienda. Una volta selezionati i 10 progetti, inizierà la raccolta fondi attraverso la piattaforma messa a punto da The Rev, che è la principale realtà di crowdfunding in Italia. 40.000 utenti attivi, 6 milioni quelli iscritti sui social media del network, 3 milioni di euro la cifra complessiva raccolta nelle varie campagne. Tra queste, la più grande mai realizzata in Italia, quella per la ricostruzione della Città della Scienza a Napoli. Circa 1,5 milioni di euro raccolti. Con il fondatore Roberto Esposito partiamo da qui. Quello è stato un segnale molto forte. Nel 2013 il crowdfunding era ancora uno strumento, un fenomeno emergente, ancora insomma agli inizi, e la campagna di Città della Scienza diede un segnale molto forte. Noi dopo l'incendio del museo chiedemmo 100.000 euro, sollecitando i napoletani a dare un euro, insomma 100.000 napoletani, un euro ciascuno, abbiamo raccolto 1,6 milioni. Quindi è stato un forte segnale di partecipazione attiva da parte dei cittadini, che in prima persona preferiscono impegnarsi e anche economicamente per sostenere ciò che hanno a cuore. È stato un segnale forte e infatti ad oggi vediamo i risultati, perché il crowdfunding è un fenomeno in forte crescita, sta coinvolgendo molti enti pubblici e molti brand e molte grandi aziende come Coca-Cola, che in maniera molto lungimirante e innovativa decidono di investire su questa nuova forma di finanziamento e di supporto delle buone idee. Tu ti occupi anche di comunicazione, di campagne social. In che misura iniziative come queste, la leva del crowdfunding civico, sta diventando una strategia di comunicazione, di marketing? Sì, la nostra azienda si occupa anche di strategie digitali e social media, e uno dei nostri punti di forza è proprio l'unione dei due fattori: da un lato il crowdfunding come strumento innovativo di finanziamento, dall'altro lato i social media come amplificatore e come anche aggregatore di comunità e di persone che condividono un obiettivo o un progetto, per cui i social network giocano un ruolo fondamentale, sono il luogo in cui le buone idee diventano virali e il luogo in cui le persone che le condividono e che vogliono insomma supportarle in prima persona si uniscono tra di loro, uniscono le forze per trasformare quella che è una buona idea in un progetto concreto. Mi ospiteresti per cena? Con il social eating nasce un modo nuovo di condividere la tavola per riscoprire insieme il piacere dell'ospitalità. Posso dormire sul divano di casa tua? Con il couchsurfing impariamo a condividere i nostri spazi e insieme scopriamo un modo nuovo di viaggiare. Mi daresti un passaggio a 30 km da qui? Con il car sharing possiamo muoverci risparmiando e insieme salvaguardiamo l'ambiente. È dedicata tutta alla sharing economy, l'economia della condivisione, la quarta edizione del Festival di Altro Consumo. Io condivido, è in pratica il primo festival sulla sharing economy in Italia. L'appuntamento è a Milano il prossimo weekend, sabato 24 e domenica 25, al Castello Sforzesco, e ci sarò anch'io a moderare due delle tavole di discussione. Intanto ce lo siamo fatti raccontare da Ivo Tarantino di Altro Consumo. Abbiamo scelto di mettere il tema della sharing economy al centro del festival perché si tratta di un tema che riguarda oramai quotidianamente ognuno di noi, ogni fascia della popolazione in maniera abbastanza trasversale. Anche per noi, che siamo un'associazione di consumatori che esiste da 40 anni, è un tema sfidante. Ci confrontiamo con questa evoluzione del mercato, la vecchia barriera fra lavoratore, produttore, consumatore diventa un po' più labile. Offriamo tutti, o tutti possiamo offrire dei beni e dei servizi e metterli a disposizione degli altri, e i vecchi modelli economici vengono un po' travolti da nuove aziende, nuove formule di condivisione. Airbnb, Uber, BlaBlaCar entrano nella nostra vita e ci consentono di fare delle cose che sino a ieri non potevamo fare. Che cosa succederà in queste due giornate? Apriamo la mattina alle 10, andiamo avanti fino alle 7 e abbiamo dei workshop, dei convegni, delle tavole rotonde. Ci saranno alcuni esponenti importantissimi, diciamo così, della teoria della sharing economy, alcuni professori che arrivano da New York come Arun Sundararajan. Oltre a questo versante un po' più culturale, avremo anche degli eventi partecipati, eventi aperti al pubblico, gratuiti, che ci offriranno l'opportunità di capire, di entrare, di vivere nell'epoca dell'economia condivisa. Continuiamo a parlare del festival Io Condivido tra pochissimo, restate con noi perché poi nella seconda parte scopriremo anche la tendenza del tech beauty. Siete pronti all'arrivo dei cosmetici intelligenti? Subito dopo la pausa. Essere e avere. Quasi 5 italiani su 10 over 45 non hanno mai sentito parlare di sharing economy. Evidentemente non ascoltano essere avere, consentitemi la battuta, e fra chi la conosce l'89% non l'ha mai provata. Questo è il risultato della ricerca condotta da Altro Consumo in occasione del festival sull'economia condivisa in programma il prossimo weekend a Milano. Ripartiamo da qui con Ivo Tarantino. A luglio di quest'anno, per prepararci al festival, abbiamo fatto una ricerca, un'inchiesta su 1000 italiani di età compresa fra i 45 e i 70 anni. Ci siamo concentrati su questa fascia d'età perché è quella che naturalmente è un po' meno abituata a usufruire dell'economia condivisa, della sharing economy, e volevamo capire quali erano le barriere all'ingresso. Il 47% non ha mai sentito parlare di sharing economy, e di quel 53% che ha sentito parlare di sharing economy, solo l'11%, quindi se ci pensiamo fondamentalmente il 5% degli italiani in quella fascia d'età ha usufruito di servizi di sharing economy. Che cosa li frena? Li frena la paura, fondamentalmente. La paura per il 46% di lasciare i dati della propria carta di credito online. In alcuni casi la paura dello sconosciuto, quindi il fatto che per il 36% di coloro che avrebbero anche una casa da mettere a disposizione su Airbnb o su altre piattaforme di turismo collaborativo, e per il 28% di coloro che posseggono un'auto e potrebbero prendere passeggeri per dei viaggi, la paura dello sconosciuto. Quindi probabilmente ritorna un tema importante. Nell'epoca della sharing economy la moneta più importante che si scambia è la fiducia. Manca dall'altro lato anche un po' il quadro normativo. Le persone ad esempio non sanno come poi dichiarare il reddito che gli arriva dal fatto che stanno affittando una stanza di casa loro. Non sanno, perché magari manca un po' di informazione, come comportarsi nel caso di incidente, se l'assicurazione RC Auto coprirà i passeggeri che stanno viaggiando con loro. Quindi il tema veramente importante per superare queste barriere è lavorare sulla informazione, sulla formazione e sulla chiarezza di questo nuovo settore che sta diventando sempre più importante. Focus sui trend. Dai cerotti intelligenti per l'esposizione solare alle creme con un microchip che ci avvisa quando stanno per finire, passando poi per le maschere con i biosensori. Anche la cosmetica è sempre più tech. Le nuove frontiere della bellezza si incrociano con l'innovazione tecnologica, e allora esploriamo questa tendenza con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e bentrovati i nostri ascoltatori e tutti quanti. Da dove partiamo? Qual è il primo caso che hai selezionato per noi? Senti, guarda, io direi di partire dal caso che più ci fa ancora pensare all'estate, in cui dovremmo ancora un po' sentirci rilassati e quindi anche forse più belli. E probabilmente questo cerotto di cui parlavi, che si chiama My UV Patch di La Roche-Posay, è stato un grande aiuto per chi l'ha provato quest'estate. Si tratta di un cerottino a forma di cuore che utilizza una bioelettronica molto intelligente, perché è in grado di verificare il livello di assorbimento dei nostri raggi, dei raggi UVA sulla nostra pelle, e per 5 giorni, cambiando colore, darci la segnalazione di quanto eventualmente ci fossimo esposti troppo o meno. Ma in più, attraverso, facendo una foto a questo cerottino, ci si poteva collegare a una app dove eventualmente venivano dati anche altri consigli rispetto a questo tema. Quindi un valido supporto antiscottatura, ecco, diciamo così, a testimonianza di una cosmetica sempre più su misura, Luisa. La tecnologia in questo senso aiuta moltissimo. Sì, esattamente. Infatti direi che tra i trend questo è proprio il principale che notiamo da un punto di vista proprio anche della ricerca delle aziende. infatti da questo punto di vista la tecnologia aiuta moltissimo in un caso che parte dalla Nuova Zelanda. Elizabeth Arden ha realizzato la possibilità di creare un fondotinta esattamente sul proprio fototipo. La propria pelle viene analizzata da uno spettrofotometro all'interno dei negozi, che è in grado di definire esattamente quali sono poi i pigmenti più adatti a valorizzare la propria pelle. Quante volte ci è capitato di testare un fondotinta sul dorso della mano e di trovare magari che una nuance è troppo chiara e l'altra troppo scura? Esattamente. È un pochino costoso, devo dire questo, perché per ora è messo in commercio a circa $90, però insomma magari in futuro. Prossimo caso è un caso francese molto interessante, perché tra l'altro nasce da una startup aiutata con un crowdfunding su Kickstarter, che poi è riuscito ad avere talmente successo che questa maschera di cui vi parlo è in commercio proprio da quest'anno, da giugno. Si chiama Mapo Mask, è stata realizzata dalla Clinique Digitale. Si tratta di una maschera in silicone che attraverso alcuni biosensori è in grado di analizzare molto rapidamente, in pochi secondi, le caratteristiche principali, dall'idratazione a proprio anche le caratteristiche più fisiche della nostra pelle, che poi vengono inviate direttamente via Bluetooth a un'app sul nostro smartphone e ci collegano a un network di specialisti del beauty, ma anche del care se vogliamo, che daranno poi informazioni, consigli sulla crema migliore, il trucco migliore. Beh, è bellissimo, assolutamente futuristico come cosa. Anche i negozi, parlando di retail, ovviamente puntano a rendere visibile questo approccio tecnologico. Certamente, dobbiamo dire che il settore del beauty da sempre vede nel retail uno degli spazi, diciamo, dove maggiormente viene fatta questo tipo di sperimentazione. E infatti tra i tanti casi mi piace citare Sephora, che all'interno del negozio ha posizionato degli specchi intelligenti. Questi specchi si chiamano ModiFace Mirror, hanno un software all'interno di riconoscimento facciale che anche in questo caso è in grado di dare delle simulazioni del nostro viso, tratti anche proprio in questo caso di nuovo legati alle caratteristiche della pelle, perché un trucco, ma anche un anti-age, poter verificare, vederlo poi in maniera precisa quale sarà poi l'effetto su di noi, diciamo che ci consente di non comprare più a scatola chiusa qualunque cosa rispetto al beauty, nella promessa magari di un effetto che poi di fatto a volte non c'è. Come in tutti gli scenari di prodotto sul futuro, anche nella cosmetica si parla di microchip per rendere intelligenti i prodotti, cioè in grado di dialogare con i nostri device, quindi Luisa, Internet delle cose. Sì, assolutamente, è un internet tra l'altro a volte anche molto rivolto a semplificare la vita, perché queste fiere che molto spesso raccontano a volte anche i progetti come il Cosmopack di Bologna di quest'anno, ci mostrano uno scenario per esempio di crema al cui interno il microchip servirà non solo a darci le informazioni relative precise alla crema, ma anche per esempio a quanto prodotto manca alla fine del vasetto, piuttosto che anche informazioni su come usarla, la crema stessa, o come anche eventualmente riciclare il pack, che non sempre è così banale, scontato fare. Quindi anche strumenti di servizio proprio sul consumatore. Sì. Siamo in chiusura, abbiamo spazio per la riflessione finale. Guarda, io credo che sia un trend da cui non si tornerà indietro, questo che sempre di più viene chiamato touch beauty, digital beauty, e questa idea di comunque lavorare su una sperimentazione che incorpora positivamente la tecnologia all'interno poi dello sviluppo rispetto a tutto ciò che riguarda il mondo del care e del beauty. E mi piace raccontarvi un caso anche quasi futuristico di beauty, che però credo che sia proprio emblematico di quello che può essere lo sviluppo futuro da questo punto di vista di una bellezza high tech. Katia Vega è una ormai non più solo studentessa ma anche scienziata che in Brasile, a Rio de Janeiro, viene proprio seguita da molti aziende della cosmetica, che ha cercato di trovare un collegamento tra quelli che sono gli oggetti quotidiani, tra virgolette, del mondo del beauty e la tecnologia, e è riuscita a elaborare, per esempio, delle ciglia finte, che quindi vengono applicate alle nostre vere, che poi trattate con una sorta di eyeliner elettrico sono in grado di accendere e spegnere la luce nella nostra casa. Quindi veramente una sorta di Internet of Things applicato, wearable mi viene a dire, al nostro corpo, alla nostra bellezza. Beh, su queste sono veramente molto curiosa, non vedo l'ora di vedere il prototipo. Anch'io. Grazie Luisa Schiera, alla prossima. Alla prossima, arrivederci. Il consumautore. Siamo come sempre alla riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, a tutti i radioascoltatori. Il tuo spunto questa sera, come ci hai abituato a fare altre volte, parte da un libro. Sì, parte da un libro non ancora tradotto in italiano, ma molto importante, perché è un libro di Kevin Kelly, che è il guru delle tendenze soprattutto tecnologiche, l'ideatore di Wired e di tante altre cose, e il libro si chiama Inevitable, quindi inevitabile. Sono 12 tendenze che partono dalle tecnologie che plasmeranno il mondo del futuro in modo inevitabile. Il suo primo libro, Out of Control, del 94, leggo da Wikipedia, Francesco, fu uno dei testi che gli attori di Matrix, la celebre saga, dovettero leggere obbligatoriamente per entrare nella logica del film. Insomma, uno che di futuro se ne intende parecchio. Se ne intende parecchio, anche perché poi in questi 22 anni, dal 94 ad oggi, ha veramente colto tutti i passaggi che noi definiamo paradigmatici e che hanno un peso per il nostro consumautore. In questo caso mi limito soltanto al primo capitolo, per dare un'idea. Il primo capitolo è dedicato al becoming, quindi al divenire, e questo vuol dire anche uscire dalla classica antinomia essere o avere, no? Che ha caratterizzato 50 anni di riflessione sociologica che noi abbiamo superato che noi abbiamo superato col nostro titolo, che va molto al di là anche dell'apparire, perché ci dice Kevin Kelly: oggi chi non è disponibile a diventare, quindi a cambiare, è fuori da tutti i giochi. Come tutte queste rivoluzioni tecnologiche, pensiamo al mondo dei big data, dell'Internet of Things, insomma tutti i megatrends che sono assolutamente ben spiegati nel libro, come stanno cambiando il mondo del marketing e della comunicazione? Profondamente. Qui mi riferisco al secondo capitolo, visto che tu mi solleciti su questo, che è dedicato al cognifying. Cosa significa? Coscientizzare. Non è bella la traduzione, ma per capirci, e cioè la consapevolezza, no? Il fatto che oggi non abbiamo solo dei consumautori più consapevoli, ma degli imprenditori e dei manager che devono imparare ad esserlo e devono fare i conti con la realtà, con la verità, con l'autenticità, e questo crea molti problemi a chi ha comunicato sempre storie, racconti, ma senza tanta coscienza. Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.